Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, alzi la mano destra. Chi avrebbe mai detto che dopo tre giornate di campionato le due favorite, e cioè Milan e Inter, avrebbero avuto rispettivamente 2 punti e 1 punto in classifica, 3 in totale su 18 disponibili. Incredibile. Così in testa a 7 punti ci sono Genoa, Juventus e Udinese in ordine alfabetico, anche perché la differenza reti è la stessa, più 4. Meriterebbe per la verità di starci l'Udinese per il mio, perché ha giocato 2 partite fuori casa, mentre le altre 2 hanno giocato 2 volte in casa, ma mi pare non sia grave, no? Stante questo equilibrio, visto che un gradino più sotto poi ci sono altre 4 squadre a 6, e cioè Napoli, Fiorentina, Palermo e Cagliari. 2 direi le considerazioni principali. La prima è la grande occasione fallita dalla Juventus per andarsene in fuga, perché il calendario di queste prime giornate è stato indubbiamente favorevole, perché giocava in casa contro il Bologna, diciamo pure modesto, reduce da 2 sconfitte su 2, perché era andato in vantaggio, perché ha regalato un uomo causa una sciocchezza di Vucinic, e si è fatta raggiungere sull'unica occasione avuta da Bologna, quindi una grande occasione perduta. Ma ancora più forte, credo, il rimpianto o forse il pentimento del Napoli per via di questo assurdo turnover, assurdo perlomeno dal mio punto di vista, visto che Mazzarri ha scelto di lasciare a riposo la bellezza di 7 titolari e ha regolarmente perso sul campo, tra l'altro, della sua bestia nera, il Chievo. Mi segnala Giorgio De Luca, che oggi è in assistenza, che quella di ieri è la 3ª sconfitta consecutiva del Napoli a Verona sul campo del Chievo, ed è anche la vittoria numero 100 per Di Carlo, allenatore del Chievo, in carriera, in campionati professionistici. Ora, io ho questa vecchia teoria, da alcuni condivisa, da altri contestata, che un allenatore, salvo rarissime eccezioni, non incide mai più del 10-15% sul rendimento della squadra. In compenso, sempre per il mio, può far danni in percentuali molto, ma molto superiori, e mi sembra il caso di Mazzarri ieri sera. Scrive spiritosamente un ascoltatore che si firma col cognome, che è Mataluna, ma non l'iniziale è una G. Dice: questa nuova divinità apparsa da qualche anno nel mondo del calcio, cioè il turnover, scritto tutto maiuscolo, è una cosa a cui gli allenatori sacrificano punti. Mi ricordano quel vecchio taccagno che visse tutta la vita in povertà per paura di diventare povero. È suggestivo. Poi in realtà il Napoli ha un girone di ferro in Champions League, e quindi è giusto, ha un senso che provveda a far riposare progressivamente dei titolari, perché non ha mai partite di scarico. Però è anche vero che se tiene un colpo sembrano ragionevolmente tanti. Aggiungerei anche una riflessione che finora sinceramente non ho sentito a proposito di turnover. Un conto è appunto quei 2, 3, 4 massimo che riposano e che ruotano, ma se tu ne fai riposare 7, automaticamente carichi non la tua squadra ma la squadra avversaria, perché tra le altre cose questi già a noi saremmo quelli che, tanto se anche ne fai riposare 7, poi i punti li fai lo stesso. Mo' vediamo, eh? E ieri sera il Chievo infatti gliel'ha fatta vedere. Da che voci cominciamo? Potremmo cominciare proprio da lì e dalla orgogliosa rivendicazione di Mazzarri di questa sua scelta così estrema. Se Dossena non gli fosse successo quello che gli è successo, avrei tenuto fuori anche Maggio, che forse si è fatto male come si pensava. Quelli che hanno fatto le 3 partite consecutive al 150% delle nostre possibilità, sia a Cesena, poi con Manchester e col Milan, oggi avrebbero pagato ancora di più, tant'è vero che quando poi abbiamo preso il gol, che non c'entra niente da un punto di vista del gioco, però c'era Hamsik in campo, Cavani in campo e Inler, prima non l'abbiamo preso. E lì il problema è che quando una partita parte così, poi non è che in mezz'ora arrivano i salvatori della patria a raddrizzarla, no? La partita è ormai andata in un'altra maniera e si è incanalata diversamente. Ci sarebbe anche l'Atalanta a 7, scrive Paolo, e ha perfettamente ragione. Poi aveva 6 punti di penalità e sinceramente non mi sembra colpa nostra. Anzi, secondo me è pure andata bene, se vogliamo fare un bilancino di quella vicenda estiva, e comunque l'Atalanta sta andando forte, perché ha raggiunto l'Inter già in classifica, no? ed è tutto dire, ha raggiunto l'Inter a +1, ma effettivamente avrebbe 7 punti e sarebbe a sua volta in testa alla classifica. Qualcuno ha sentito Mourinho su Ranieri? Domanda Mauro. No, non ancora, anche perché Mourinho ha d'altra parte i suoi problemini al Barcellona, al Real Madrid in questo momento, un altro pareggio brutto ieri sera fuori casa nel campionato spagnolo, però ha pareggiato anche il Barcellona, sia pure sul campo della capolista Valencia, e anche lì sta un po' in proporzione minore rispetto a quello che sta succedendo da noi, ma il fenomeno è più o meno lo stesso, e cioè tutti a dire alla vigilia che Real e Barça avrebbero ucciso il campionato, certamente prima o poi accadrà, ma per il momento a 10 in classifica c'è il Valencia, a 9 ci sono il Malaga e il Betis Siviglia, che deve ancora recuperare una partita e può andare stasera a punteggio pieno, e per trovare il Barcellona col Siviglia e Levante si scende a 8 e il Real Madrid con l'Atletico Madrid addirittura a 7. Abbiamo sentito Mazzarri, e vi dicevo che l'altro verdetto significativo di ieri in negativo è quello della Juventus, e allora sentiamo anche Antonio Conte. No, dispiace sicuramente aver mancato i 3 punti. Sono soddisfatto per quello che hanno espresso i ragazzi in queste 3 partite, non solo oggi, perché comunque penso che anche nelle altre partite si è visto un'anima, una squadra che comunque vuole fare la partita, non si vuole arrendere di fronte alle difficoltà. Oggi abbiamo avuto questa grossa difficoltà di giocare 50 minuti in 10 contro 11. Ho detto, sentiamo Antonio Conte, una parola un po' grossa, no? Perché sentirlo era un'impresa, povero, ha urlato un pazzo per tutta la partita e la voce è andata. Ricorda un po' il Leonardo delle prime uscite sulla panchina del Milan. Allora, che gol Zahavi, scrive Mino da Bergamo, quante volte può capitare un gol simile in una carriera? Beh, non tantissime, però intanto quello l'ha fatto. A proposito di qualcuno, ha sentito Mourinho su Ranieri? No, insomma, adesso no, in queste ore non ha parlato, non si è espresso, secondo me non ha parlato nemmeno con l'Inter, perché sennò Ranieri non credo che sarebbe stato un suo, sia pur lontano, successore sulla panchina dell'Inter. Però un frammento noi l'abbiamo messo da parte nel frattempo, perché insomma poi ci sono delle parole che restano nel tempo. Tra poco invia i vostri interventi in diretta, perché è un giovedì che somiglia tanto a un lunedì, nel senso che è l'indomani di una giornata di campionato. Continuiamo però ad ascoltare qualche commento sulla serata di ieri. Anzi, questo lo attualizziamo a stamane, ed è un intervento di Galliani sulle condizioni di Pato e più in generale sul Milan. Perché? Non è la prima volta che Pato si infortuna muscolarmente, anzi è l'ennesima, ed è ovvio che qualche punto interrogativo, non dico sulla carriera, ma insomma sull'affidabilità di questo giocatore, si cominci a fare o si rafforzi sempre più. Insomma, Galliani. Vediamo oggi come saranno gli esami, certo stanno analizzando, stamattina ho già fatto fare una riunione fra tecnico, preparatore atletico e medici, capire un po' perché questo ragazzo, che per 2 anni interi, 2008-2009, non ha mai avuto infortuni, adesso è l'ennesimo guaio muscolare. È chiaramente un Milan con 10-12 giocatori in meno, quindi è dura avere così tanti infortunati, ma passerà. Noi siamo un ambiente che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, la Supercoppa italiana un mese fa, quindi mancherebbe di non essere tranquilli. Diamo un bel daspo a quel tifoso della Juventus, scrive Renato da Vittorio Veneto, oppure preferiamo fare all'italiana? Non lo so, questa è una decisione ovviamente che spetta a chi di dovere. Certo, non è un bel segnale, non è successo nulla, non è un fatto grave, entro certi limiti ha ragione anche Buffon a dire che una sberla non ha mai ammazzato nessuno, e lo ha detto Buffon giustamente, col sorriso sulle labbra, in maniera molto apprezzabile. Però è anche vero che al primo accenno di turbolenza in campo, qualcuno del pubblico, anche in questo nuovo salotto fatato, ha inteso diventare protagonista alzando le mani, e questo è un segnale da cogliere, no? Nell'interesse di tutti, ma nell'interesse della Juventus e dello stadio che ha costruito innanzitutto. Francesco ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare i complimenti per la trasmissione, che la seguo abbastanza spesso. Io sono un tifoso dell'Atalanta, Volevo sapere secondo lei se c'è la possibilità che si salvi dopo la penalizzazione, dopo comunque il gioco che sta esprimendo in queste prime giornate. Ma che si salvi, cioè la possibilità che si salvi c'era prima, c'è a maggior ragione adesso, dopo una partenza del genere, dopo che finalmente si sta affermando, come secondo me merita da anni, un centravanti come Dennis, in cui né a Napoli né a Udine hanno creduto abbastanza. Poi è ovvio che c'erano delle buone ragioni, nel senso che c'erano alternative fuori. L'anno scorso a Udine giocavano, la coppia titolare era Di Natale Sanchez, insomma, no? Quindi non è facilissimo levare il posto a questi due, e Dennis si è dovuto accontentare di rotazioni. Però che sia un signor centravanti vecchia maniera, Dennis non ci piove, e mi pare che gli siano bastate tre giornate in una squadra che gli dà fiducia, e non dico giochi per lui, ma gli dà fiducia e continuità, gli sono bastate tre giornate per dimostrarlo. Riccardo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Una considerazione su Ranieri, nuovo allenatore dell'Inter. Secondo me farà bene. Chiedevo a lei semplicemente, in passato ho visto che magari ha fatto degli errori nella lettura della partita, secondo me, cioè molto, secondo me sarà bravo a gestire lo spogliatoio. Però al momento di leggere la partita, non so, in un momento, immagino magari in un derby, secondo me potrebbe fare degli errori. Volevo sapere cosa ne pensava. Ma io penso invece che i suoi problemini comincerà ad averli lì tra quelle quattro mura, perché insomma, dopo aver visto l'altra sera questo labiale di Cambiasso inequivocabile, che si avvicina a Ranocchia e gli dice adesso giochiamo a quattro e te lo dico io. Sì, è vero che stiamo parlando di una situazione in cui Gasperini era già praticamente esonerato sul campo, no? e forse nelle intenzioni anche alla vigilia, però insomma credo che esista all'interno della squadra non dico un clan, ma insomma diciamo che i sudamericani e gli argentini in particolare potrebbero, come dire, avere una certa voce in capitolo. Ora Ranieri non è tipo da farsi spaventare da queste cose, ma insomma, tenerne conto e farci i conti credo che sarà abbastanza inevitabile. Poi la lettura delle partite vediamo, perché lì siamo abbastanza nell'opinabile. In ogni caso potrà sempre contare, io credo, Ranieri, in caso di necessità, sull'affetto che gli deriva da quello che gli testimoniò a suo tempo il grande profeta nerazzurro, e cioè Mourinho. Possiamo ascoltare, credo, questo frammento vecchio di un paio d'anni, ma sempre significativo per il mio. Io sono una persona molto esigente con me, bisogno di vincere per essere felice. A quasi 70 anni ha vinto qua una Supercoppa, una piccola coppa, ma le grandi cose non ha vinto mai. Chissà, bisogna cambiare la sua mentalità, ma chissà, troppo vecchio per cambiare. Aveva 56 anni, al tempo di questa dichiarazione affettuosa di Mourinho nei confronti di Ranieri. Ranieri, che aveva 70 anni, secondo Mourinho ne aveva esattamente 56. Io credo che Ranieri possa essere una buona soluzione per l'Inter. Di sicuro per il momento è una brutta perdita per la Rai, su questo credo non ci sia discussione, che è una persona per bene, educata, competente, che sapeva stare al suo posto, ma sapeva anche, quando interveniva, parlare con il cervello ben collegato, cosa che non sempre ai commentatori sportivi, ai commentatori diciamo militanti, no? Di qua, dall'una, dall'altra e dall'altra parte ancora succede con grande facilità. Luca ha chiamato dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, salve. Volevo intervenire sulla defaianza ieri del Napoli. Concordo con la sua analisi in pieno e rispecchia proprio il mio pensiero. Volevo solo aggiungere qualcosa. Innanzitutto credo che una squadra che l'anno scorso ha centrato l'obiettivo Champions e che comunque ha detto la sua in campionato abbisognava di innesti e di investimenti diversi, cosa che il nostro presidente, vuoi per il fair play finanziario, vuoi per delle scelte, perché Napoli li paga con le televisioni, con gli stadi pieni, omette di fare gli investimenti giusti e corposi. Ritengo che tutti i meriti che vengono assegnati a Mazzarri in effetti sono da ripartire con i preparatori a 13, perché il Napoli, mio malgrado, e non sono colui che al primo risultato negativo butta tutto all'aria, il Napoli, dicevo, è una squadra che gioca sulla preparazione atletica, sulla forza fisica, ma non è una squadra che spinge un gioco vero e proprio, insomma. Siamo legati al catenaccio e al contropiede del calcio di 20 anni fa. Quindi, vabbè, adesso senza esagerare, non è un calcio avveniristico quello di Mazzarri, questo no, però è un calcio realistico, è un calcio efficace, è un calcio a tratti spettacolare, perché io credo che anche la ricerca, tutti sanno che preferisco vedere giocare il Barcellona rispetto al Napoli, ma rispetto a qualsiasi altra squadra. Però ci sono tanti modi di giocare a calcio in maniera divertente, in maniera spettacolare. Quando il Napoli riesce ad attirare nella propria metà campo gli avversari per crearsi questi spazi e poi li colpisce con quella velocità e con due passaggi, riapplicando una lezione della vecchia grande Inter, stiamo parlando di 50 anni fa, non solo non ci vedo nulla di male, ma ci vedo anche un modulo, una scelta precisa che ha una sua spettacolarità. E questo è un conto. Lasciarne fuori 7 e rivendicare la scelta dicendo peccato appunto per Berdossena, se no lasciavo fuori 8, ma mi sembra un inutile esercizio di esibizionismo, no? che nuoce e che oltretutto è già stato squalificato dal risultato. Che poi De Laurentiis non abbia investito quest'estate non mi trovo assolutamente d'accordo, perché il Napoli adesso può permettersi di fare il turnover, cosa che l'anno scorso non si poteva permettere di fare invece, o comunque in misura molto minore. Quest'anno se lo può permettere, si tratta di vedere in che modo farlo. Un turnover integrale così secondo me non se lo può permettere nessuno, nemmeno il Barcellona, nemmeno il Real Madrid, quindi non vedo perché il Napoli. Stefano Grosseto, buongiorno. Buongiorno, sento, volevo fare un appunto sulla prestazione della Juventus di ieri sera, che ho notato non solo ieri ma anche in altre partite, compreso il precampionato, che ci siano dei giocatori che non so come mai, molto probabilmente risentono delle storie, delle, possiamo chiamarle scorie, dello scorso anno, di 2 anni fa, 3 anni fa, e sono quelli che bene o male, loro malgrado, un pochino più pericolosi quando attaccano gli avversari. Insomma, comunque sia, si rendono sempre protagonisti di episodi abbastanza strani. Per esempio, ieri sera Giaceglie, che certamente non ha commesso un'azione positiva nei confronti appunto della difesa, perché si è girato, ha perso palla e ha causato quindi poi il tiro dal quale poi è nato l'angolo. Di conseguenza anche Chiellini, che non è stato in grado di opporsi a Portanova, qualche volta capita anche a Marchisio. Cioè, secondo lei effettivamente ci sono sempre dei giocatori che stanno risentendo un po', io ho parlato di scoria, ma ovviamente è un termine che può essere usato anche in alcune altre accezioni, sta risentendo un po' di certe malefatte dello scorso anno, 2 anni fa, 3 anni fa, e devono ancora... Insomma, ci sono giocatori che non sono, che hanno dei limiti, su questo non c'è dubbio, però io credo che di tutti quelli che ieri sera hanno commesso, qualcuno ieri sera ha commesso errori, ma l'errore più grave l'ha commesso il giocatore forse di maggior talento, anzi uno di quelli di maggior talento, perché poi ci sono Pirlo, c'è Del Piero, c'è Buffon, e cioè Vucinic, che ha fatto una sciocchezza doppia per il mio, perché la prima è una munizione delle proteste che ci si può sempre risparmiare, no? Perché una volta che l'arbitro ti ha fischiato fallo, cosa fa? Torna indietro sulla sua decisione, un fallo banale, tra l'altro in attacco. Ma poi se sei già ammonito ed entri a quella maniera, l'espulsione te la vai a cercare, lasci la squadra in 10, quella è una colpa grave. Quelle di Chiellini e De Ceglie, sì, sono dei segnali di limiti che non stanno migliorando. Ecco, questo, da questo punto di vista le do ragione. Arriva un commento di Massimo Moratti che dice: quella di Ranieri è la scelta migliore, ha il buon senso necessario per rivitalizzare la squadra, sia per quanto riguarda i singoli che nel suo insieme. C'è dispiacere per Gasperini, che è sempre stato sostenuto, nonostante quello che è stato che è stato detto. Molti ascoltatori già collegati, però anche qualche altro protagonista a cui dare spazio, magari anche in maniera sintetica, però insomma Malesani è pur sempre in testa al campionato. Sentiamolo. È una mini soddisfazione, non so quanto lo saremo, magari anche per una giornata sola, ma è importante per tutti, per la società, il presidente, soprattutto per i giocatori. Il Genoa non era in testa alla classifica da 2 anni e, combinazione, l'allenatore di allora era Gasperini, dopo 3 partite e 3 vittorie. E addirittura erano allora a punteggio pieno i rossoblù. Parlavamo prima di un altro protagonista, di cui abbiamo una testimonianza di ieri sera, che è il centravanti dell'Atalanta, centravanti in vecchia maniera, che io adoro per come si muove e per come occupa l'area, Denis. La classifica in un'altra maniera, basta stare di giù, di pensare meno quanti punti avevamo. L'importante è che la squadra sta bene, è solida, e quello è l'importante. Sì, senza dimenticare Jovetic, per esempio, che a sua volta, dopo quel gravissimo infortunio un anno fa, insomma, è guarito, ha ritrovato un minimo di condizione ed è tornato subito protagonista ieri sera a Firenze. Adesso torniamo dagli amici già collegati. Massimo dalla provincia di Monza. Sì, buongiorno signor Garanzini, volevo dire che sono praticamente d'accordo con lei quando dice appunto che la Juventus ieri ha perso una grande occasione. Magari questi 9 punti avrebbero dato una spinta maggiore, no, alla squadra. È vero anche che il calendario sicuramente era abbastanza, tra virgolette, semplice, no, per la Juventus. Sì. Per cui diciamo che la dimostrazione è che purtroppo il mercato, per quanto riguarda il reparto difensivo, si vede insomma che non è stato fatto in maniera adeguata. Detto questo, però, siccome purtroppo quest'anno mi sono perso la profezia, chiamiamola così, del signor con la S maiuscola Galeone, volevo chiedere se era possibile sapere che cosa aveva previsto insomma per la Juventus quest'anno, se è possibile. Insomma. È possibile, sì, anche perché non è a pagamento. E non vorrei far diventare Galeone a Sibilla Cumana, questo è un divertissement. Ha previsto un po' meglio dell'altro anno, ecco. Senza sbilanciarsi troppo e senza esagerare, ma senza andare però nemmeno, ecco, senza esagerare, senza andare troppo in là, proprio perché non lo ha convinto, come non ha convinto lei, non ha convinto me, ha convinto pochi, non lo ha convinto il marcato intervento nel settore difensivo, che era la vera palla al piede dello scorso anno. E Massimo, grazie. Andiamo in provincia di Varese, da Gianni, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Io ho grande stima della sua competenza sportiva e in modo particolare calcistica, pertanto volevo un suo parere. Io sono un milanista, però volevo parlare della nuova scelta dell'allenatore dell'Inter. Secondo me Ranieri non arriva neanche a giugno. Perché? Perché il dopo Mourinho è molto difficile, e per di più Ranieri era molto nemico di Mourinho e viceversa. Per me la scelta migliore sarebbe stata l'accoppiata Figo-Baresi, due persone serie, due persone stimate dai giocatori e non certamente da sottovalutare. Un'ultima domanda, poi lascio alla sua risposta. Non mi sono mai spiegato perché Zenga non è mai stato preso in considerazione dall'allenatore, dal presidente dell'Inter. E un'ultima domanda, poi ho finito. Come mai, visto che Ranieri era libero anche a fine campionato, si è pensato solo adesso? La ringrazio. di tutte le sue domande, sinceramente questa mi sembra la migliore, non mi permetto di dare pagelle, ma questa mi sembra di gran lunga la più interessante, no? Perché? Cioè, ho letto stamane che Gasperini era stato assunto, mi pare, il 24 giugno. Che, dato che Ranieri era libero da febbraio, perché si dimise da febbraio, a febbraio dalla Roma, dopo il 4-3 di Genova subito in rimonta, 3-0 la Roma e 4-3 il Genova alla fine, come mai il 24 di giugno per Branca, o comunque insomma per i dirigenti dell'Inter o per lo stesso presidente era preferibile Gasperini, e perché 3 mesi più tardi invece Gasperini era un disastro e invece l'uomo giusto diventa Ranieri. Lei, tra l'altro, Gianni, ha tirato fuori un argomento, no? Che è quello dell'eredità di Mourinho, su cui Fabio Tavelli mi ha mandato ieri sera una simpatica statistica, che è questa. È il numero degli allenatori che nel giro di una stagione e mezza, due al massimo, le società dove è passato Mourinho sono state costrette ad assumere. Allora, al Porto in due anni sono passati, dopo la partenza di Mourinho, sono passati Del Neri per un mese e mezzo d'estate, Victor Fernandez, José Cuseiro, Co-Adrianse, no? Prima di approdare poi lo scorso anno a quello che adesso è andato al Chelsea, che invece era una grande soluzione. Al Chelsea, Tenkeit, Grant, Idink e Scolari in due stagioni, e in nemmeno due stagioni, anzi in una e un quarto all'Inter, Benitez, Leonardo e Gasperini, per arrivare adesso a Ranieri. Marco ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti. E niente, volevo parlare un secondo solo della Juve, al di là dello sciagurato Vucinic. Lei non crede comunque che la Juve nel secondo tempo sia stata una gran bella Juve e forse magari con un pizzico di fortuna avrebbe meritato solo di più? E cosa ne dice della coppiata Del Piero-Vucinic, che non mi è sembrata un granché e mi sembra che girano meglio Del Piero insieme a Madrid? L'ascolto per radio, grazie. Non so, bisognerebbe aver visto la partita intera, cosa che in una serata come quella di ieri per me perlomeno era impossibile, nel senso che si cercava di vedere un po' di tutto, no? E le cose più significative. Il fatto che la Juventus abbia attaccato in massa per l'intero secondo tempo i 10 contro 11 significa due cose: che la squadra evidentemente c'è, ha risorse, ne è convinta. Dall'altra significa che Bologna è scarso, oggettivamente, no? E quindi l'incrocio di queste due cose mi continua a farmi pensare, ma non solo a me, qualsiasi uomo Juventus da Conte in giù continua a far pensare che quella di ieri sia stata davvero una grande occasione sprecata, perché poi è vero che, per carità, il campionato è lunghissimo, i punti in palio ce n'è finché si vuole. Però intanto i punti pesano tutti e quei due di ieri sera potrebbero far comodo prima o poi e torno a Mazzarri, che non è che i tre punti del Chievo, i tre punti in palio a Verona pesavano meno di altri, no? E questo torna a farmi sembrare particolarmente strana, ma proprio strana per star leggero, la scelta effettuata ieri da Mazzarri. C'è un ascoltatore napoletano già collegato e magari vuol parlare proprio di questo. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Garanzini. Dica. In effetti proprio di quello volevo parlare. Io onestamente, cioè, mio opinione, non sono un allenatore, ma penso anche un ragazzo che gioca nei giovanissimi direbbe: ma se abbiamo 11 cavalli di razza, ne mettiamo 11 asini, non dico asini, la vuol dire, questo è un paragone, che funzionano, che corrono bene. Cioè, è come perdere già prima di iniziare la partita. È il mix che bisogna provare a indovinare, e per trovare il mix non ci si può sbilanciare, no? Non ci possono essere troppi cavalli di razza o troppi asini. Bisogna trovare, ogni tanto magari, insomma, si tratta anche di portare un pochino di soma, no? E ci vuole anche quello può essere utile, può servire, però senza rinunciare a tutti gli altri insieme. Altra combinazione, scrive Mauro: il Genoa è prima con i gol di Palacio, l'unica richiesta vera di Gasperini. Nulla da dire, è assolutamente la verità. Emanuele da Cuneo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo solo esporre una mia riflessione, simpatica volendo anche, sugli infortuni del Milan. Pensavo questo: l'anno scorso sono gli ultimi due arrivati, Ibrahimovic e Robinho, non avevano sostenuto la preparazione col Milan e non si sono infortunati almeno per la prima parte della stagione. Don Robinho, poi Ibrahimovic più tardi. Quest'anno, escludendo Mexes, che arriva da un infortunio, Taiwo e Sharawi, che hanno fatto la preparazione col Milan, già infortunati. Nocerino e Aquilani per il momento non ancora. Per il momento sono gli ultimi arrivati, non hanno sostenuto la preparazione col Milan. Ecco, se questi continueranno a giocare senza infortunarsi, insomma, avremo due indizi, già ne mancherebbe solo più. Basta, però io vedo un giocatore come Seedorf che quasi ho perso il conto di quanti anni abbia, che continua a essere non solo presente, ma spesso presente da protagonista. Poi ogni tanto deve tirare il fiato, proprio perché gli anni sono così tanti, e in questo periodo, non avendo turnover, penso tutti gli altri infortunati, gli tocca tirare il fiato in campo ogni tanto. Però insomma, mi sembra che non per tutti valga questa regola, anche se il numero, gli infortuni, lei ha ragione, oggettivamente è inquietante. Prima di spostarci ad Ancona, sentiamo che cosa Nicola Filippone ha trovato per il 22 di settembre. Sembra ieri. 22 settembre 1946. In un'Italia tutta da ricostruire, anche il mondo del calcio ripristina la normalità, con la ripresa del campionato a girone unico. Nella prima giornata è subito protagonista il centravanti della Roma, Amedeo Amadei, che travolge la Sampdoria, al debutto assoluto in Serie A, con una tripletta. La sorpresa è la Triestina, che al Philadelphia impone il pareggio al Torino di Valentino Mazzola, restando in vantaggio fino a 5 minuti dal termine, quando uno spunto di Gabetto salva i Granata dalla sconfitta. Dopo la falsa partenza, il Torino crescerà gradualmente, fino a creare il vuoto dietro di sé. Vincerà il titolo con 10 punti di vantaggio sulla seconda, anche grazie ai 29 gol del capocannoniere Mazzola. Questo era un Amarcord d'autore e di storia patria, quasi, non solo di storia di club. Fabio da Ancona, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, soltanto una puntualizzazione. Ieri mi riferisco alla trasmissione di ieri, che come sempre quando posso l'ascolto, e mi riferisco all'intervento di un ascoltatore che faceva giustamente riferimento alla grossolana caduta di Lucio l'altra sera a Novara, in cui è stato giustamente ammonito, e lui lo definiva come il più grosso simulatore di calcio italiano. A me è venuto, quando ho sentito questo, è venuto però in mente un altro personaggio, perché io ritengo che se Lucio sia un maestro, quello a cui pensavo io è veramente il professore. Tant'è vero che ieri sera gli sono bastati 10 minuti per raggiungere un'altra perla questa casistica, e sinceramente capisce a chi mi riferisco, non so se abbia fatto più gol o più simulazioni. Guardi, Inzaghi ieri sera si è lasciato un po' cadere su questa trattenuta di Domizzi, ma un accenno di trattenuta c'era, mentre invece il tuffo nell'area avversaria di Lucio non aveva nessuna giustificazione, ed è stato anche più volgare. E poi c'è una, io condivido l'opinione dell'ascoltatore di ieri e non la sua a proposito di Lucio, per questa ragione: perché anche nella partita precedente, quando lui prima dà la scarpata in testa al portiere della Roma e dopo finge di essersi fatto male, e fa sempre così Lucio, sia nell'area avversaria che soprattutto nella propria, lui cade sempre puntualmente come morto, non solo con la maglia dell'Inter ma anche con quella del Brasile. Se c'è un giocatore che a parer mio si comporta in maniera antisportiva e antipatica in campo, è Lucio. Poi ciascuno ha i suoi gusti e al momento non ha ancora reato. Riccardo, Vicenza, buongiorno. Salve, signor Ranzini. Volevo esprimere un'opinione forse avventata sull'argomento di oggi, del Napoli di ieri, delle numerose sostituzioni. Sì. Secondo, per come la vedo io, Mazzarri ha in un certo qual modo dimenticato troppo presto l'elezione, seppur inamichevole, del 5-0 del Barcellona. E quella di ieri, secondo me, è nient'altro che un po' di superbio nell'alzarsi sugli allori preventivamente, anche dopo la vittoria contro il Milan, insomma, di domenica scorsa. Secondo me, cioè, lei dice che si era molto semplicemente montato la testa, ma sì, io non. Dopo la partita con il City e dopo il Milan, cioè, è un azzardo essere fuori un intervento del genere in un campionato che si dice sia il più difficile del mondo. Beh, secondo me, poi posso sbagliare chiaramente. Ma io non conosco Mazzarri di persona, però insomma, per come lo si conosce così, attraverso le sue opere, attraverso quello che fa, attraverso la carriera, uno che si monta la testa non mi sembra. Io non credo che sia questo. Credo che sì, certo, credo che abbia sopravvalutato, ma non tanto se stesso, che abbia sopravvalutato la qualità di queste alternative. Però tenga presente anche una cosa: altro sono i gironi di Coppa Campioni, di Champions, la chiami come vuole, anzi in questo periodo qui è Champions. Altro sono i gironi del Milan o dell'Inter, che prevedono su sei partite prevedono gli appuntamenti di scarico, no? Soprattutto l'Inter in teoria ne aveva, poi certo che se becchi la prima in casa con i turchi non hai più molte di partite in cui fare turnover. Ma per esempio il Milan gioca in casa la prossima con il Victoria, che non so nemmeno bene da dove arrivi sinceramente, e credo che sia una partita in cui fermi restando i 12 infortunati, quindi la possibilità di tornare davvero si può fare. Ma il Napoli gioca sabato con la Fiorentina in campionato, il prossimo turno di campionato sarà con l'Inter e in mezzo c'è il Villarreal, e avendo nel girone di qualificazione avendo il Manchester City, il Villarreal e il Bayern di Monaco, di occasioni da far turnover ne ha proprio poche. Quindi è quel famoso vecchio, vede, ci fosse l'Otito che conosce il latino, le direi best modus in rebus, e cioè non è il caso di farne riposare 7 o 8, maggio compreso, come ha fatto avrebbe voluto fare Mazzarri ieri. Se magari ne prendi 3 o 4 col Chievo e 3 o 4 con la Fiorentina, può darsi che le cose ti vadano meglio, e nel frattempo l'obiettivo di far riposare l'hai trovato lo stesso. Finirei con un paio di voci di protagonisti fino a qui trascurati. Uno potrebbe essere questo nuovo attaccante rossonero, molto interessante, che comunque ha segnato un gol chirurgico di grande efficacia ma anche di buona suggestione, che è El Shaarawy. È stata un'emozione incredibile segnare in questo grandissimo stadio con così tanta gente, questi grandi tifosi, quindi sono veramente molto contento per il gol. Ad adiuvandum, a proposito di latino, Andrea da Parma scrive: quando Lucio cade e simula si tiene sempre con due mani lo stinco. È verissimo, è notato, è proprio è così, è un soggettino così. No, io qualche altra voce avrei voluto farvela sentire, ma sinceramente mi sembra che siamo abbastanza sul finale o sul sottofinale. Allora cominciamo con i ringraziamenti intanto a Giorgio De Luca in redazione, a Mauro De Angeli in regia. Sapete che da domani c'è Carlo Genta per il lungo fine settimana di A Tempo di Sport. Noi ci risentiamo lunedì. Buon pomeriggio.